Il punto di Stefano Folli. L'investitura è stata piena e persino solenne. Nel cuore dell'Europa, al vertice dei partiti popolari, Mario Monti è stato incaricato come un cavaliere medievale di una missione complessa e ambiziosa: rappresentare in Italia il segmento del Partito Popolare Europeo, occupare lo spazio vuoto lasciato da Berlusconi, ormai escluso dalla politica che conta, e se possibile vincere le prossime elezioni. Si può discutere su quanto sia opportuna questa ingerenza così ostentata degli europei, Angela Merkel in testa, nelle nostre questioni interne, ma il punto è proprio che forse non sono più interne, sono l'aspetto provinciale di una vicenda complessiva che si svolge sul palcoscenico europeo e in cui ogni attore deve rendere conto all'altro. Ora Monti, lo statista che non ha o non aveva un partito, ha ricevuto il compito di costruirne uno, magari rivolgendosi direttamente agli italiani, e di portarlo alle elezioni in nome dei popolari europei, sulla piattaforma dell'Europa. Lo scenario in Italia cambia profondamente e anche Bersani dovrà cambiare il suo copione.